4C. Ascolta e trasforma. Vediamo male, non vediamo male. Viviamo male. Non viviamo male. Dipingiamo male. Non dipingiamo male. Rispondiamo subito. Non rispondiamo subito. Concludiamo subito. Non concludiamo subito. Smettiamo subito. Non smettiamo subito.